Si bene per l'eternità, è un ritornello che cantarci fa l'amor, se lo canto a te tu mio tesor, cantalo a me l'amor toujours, è un ritornello di felicità, una canzone che per l'aria corre, va, parla a tutti cuor che san cos'è questo amore, va ritornello va ad ogni amante che ti ascolterà, la gioia porterai di questo amore che non muore, toujours l'amour, come una rondine nel cielo blu, dolce canzone ci prometti tu, l'amor non morrà mai più, amor, amor, toujours. Mentre noi ci baciamo, Radio Parigi per noi due trasmette, canta in sordina questa canzonetta, nell'ombra della notte. Ad ogni amante che ti ascolterà, la gioia porterai di questo amore che non muore, toujours l'amour, come una rondine nel cielo blu, dolce canzone ci prometti tu, l'amor non potrà mai più, amour, amour,